24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. C'è da comunicare la rescissione consensuale del contratto tra me e la Juventus, che ci legava anche ancora per quest'anno. Antonio Conte, ma questa è la notizia del giorno, cari italiani, questa è la notizia del giorno, Antonio Conte che lascia la Juventus, agghiacciante, ma com'è possibile? Questa è la vera notizia, ma altro che la riforma del Senato, mamma mia. Il Corriere della Sera apre su la Mogherini, ce la farà la Mogherini a diventare in pratica ministro degli esteri dell'Unione Europea? Alto rappresentante per la politica estera europea, con Renzi che fa quella che suona come una grandissima minaccia. Non volete la Mogherini? E allora candidiamo D'Alema. Mi immagino in Europa. No, la Mogherini va benissimo. È pure una donna, Paola Saluzzi, buongiorno, va benissimo la Mogherini. Abbiamo aperto con la bontà stamattina. Ottimo, viva la Mogherini. Mogherini è bravissima. Mandiamo un abbraccio a Massimo D'Alema. Massimo D'Alema. Buongiorno, e lei Alessandro Milan, comandante, manca una settimana. Una settimana e qualche giorno all'alba di quest'uomo eroico che tutte le mattine sveglia un'Italia debossata che dorme ancora. Ma quale eroico? No, però tutti in vacanza. Basta, tutti in vacanza. Allora, ma la notizia del giorno è Antonio Conte, ma dai, agghiacciante! Agghiacciante? È un ragazzo così. Ha fatto una roba così. Vado via al primo giorno. Poteva andare via qualche mese fa e venire al Milan. Io l'avevo detto da mesi. Vabbè, niente, questo è un momento di amarezza. Allora, questa è 24 mattino alle 6:33 minuti. Siamo con Giorgio De Luca in redazione. Siamo con Peter Bescapè in regia. Siamo viva con gli alpini, sempre comunque. E siamo col Parlamento che può aprire, sì. Siamo nella 63esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Cara Paola Saluzzi, adesso ti faccio venire un po' di invidia, perché voglio salutare il nostro direttore Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Eccoci qua, Luca. Direttore, buongiorno. Buongiorno, che voce squillante. Allora, Paola Saluzzi, devi sapere che Luca Dini si è svegliato proprio per noi stavolta, ufficialmente per noi, perché ti trovi, caro Luca, Ad Amalfi oggi, capisci? Oggi è ad Amalfi, no? Prima questa cosa, hai bisogno di un'assistenza, di persone ieri, che guidino la macchina. Ieri Ravello, oggi Amalfi. Sono dolori, sono problemi. Domani invece dove? Capri. Domani a Capri, eccolo lì. Va bene. Di cosa vogliamo parlare? Un po' dell'invidia sociale che proviamo. Ma il direttore si merita la bellezza. Dai, giusto. Amalfi, Ravello e Capri. Ma anche Sorrento, per essere proprio la perla, collana di perle. E aspetta, tra due giorni magari. Non facciamo tutto così in velocità, ci vogliono i ritmi vacanzieri, ci sono le cose da mantenere, i ritmi giusti. Allora, comunque, agghiacciante, vogliamo sentirlo Crozza, il buon Crozza? Dai. È venuto il momento che Antonio Conte dica la mia di questa cosa assurda che mi è capitata, è agghiacciante questa cosa assurda che mi è capitata. Agghiacciante, oh, per me è la notizia del giorno, lo so, sono, oh, faccio parte del popolino. Tu, Luca, no, Dini, no, che, no, che ne pensi, Luca? È che c'è anche lui libero per il PESC adesso, diciamo. Ecco, o Mogherini, o D'Alema, o Antonio Conte, si potrebbe. Paura, direbbe. Paura, paura. No, vabbè, ma che sarà successo? Dai, ritroscia tu, Paola Saluzzi, non puoi indagare un po'? Cosa sarà successo? Ci staccamo dalla settimana elettorale, dalla settimana decisiva per la riforma elettorale, e andremo subito ad indagare, agghiacciante. E l'uomo è veramente un po' così, cioè ogni tanto svergola in queste maniere, in questi modi molto singolari. Cercheremo di capire. Io alle 6:30 del mattino mi cogliete impreparata. Ti cogliamo impreparata, sì, vabbè, su Antonio Conte, anche perché pare. Però, che dici? No, attenzione, Luca Dini ci deve dire qualcosa. No, ci sono tutti, diciamo, i teologi che parlano del fatto che lui aveva chiesto delle cose. Ma sì, quando aveva parlato della Champions. Ma certo, voleva un mercato all'altezza. Sì, e poi c'è anche la furbia, l'astuzia, l'intelligenza di chi, insomma, se ne va quando le cose vanno bene, ecco. Sì, però ho capito, ma in genere un allenatore si dimette, voglio dire, durante, finito il campionato, finita la stagione. Sai, cioè, qual è l'unica cosa? Gli deve essere arrivata una proposta con i controfiocchi. Ah, la nazionale, agghiacciante, agghiacciante. La nazionale italiana, c'è questa panchina. In questo momento, però, insomma, ho capito, però voglio dire, non puoi lasciare arriva la proposta a Tiraduni con la Juve, è ripartita già ufficialmente la nuova stagione, primo giorno d'allenamento, poi te ne vai, cioè, insomma, allora dici è arrivata una proposta, insomma, non lo ma so, è un po' agghiacciante, è un po' agghiacciante tutto, cioè, l'uomo in sé è un po' inquietante comunque, ma adesso perché è inquietante, cosa c'ha di inquietante, Antonio? È un po' inquietante, il gatto in testa. C'ha il gatto in testa. No, quella era anche Love, che io ho detto, quella è una marmotta in testa, però tedesca, e quindi scenderà solo a fine partita. Va bene. Era molto ordinata, ma era un attacco di invidia nei confronti della Germania. Allora, cara Paola, arriva un messaggio di Massimo: fate allenare la mia Juve dalla mia Paoletta. Ma non doveva allenare la nazionale? Ma come adesso c'è una panchina ma per tutte le stagioni? Tutti mi chiamano. Una panchina per tutte le stagioni. No, ma io ringrazio Massimo soprattutto perché sarei fantastica ad allenare una squadra di calcio. Non saprei da dove iniziare. Io sognerei tantissimo, perché con Paola Saluzzi in panchina la Juve perderebbe, quindi sarei contento. Grazie. Grazie. Vabbè, ma dai, ma adesso sei bravissima a fare tutto, ma l'allenatore di calcio. No, farei un po' Don Camillo. Ti ricordi quando Don Camillo allena la sua squadra? Sì, vabbè. Ecco, vabbè, sarei un po' quello. Meglio come Lady Pesk. Meglio come Lady Pesk. Paola Saluzzi, alto. Grazie, rappresentante, direttore. Piuttosto che Massimo D'Alema, io candiderei Paola Saluzzi. Anch'io. Ecco, vedi, siamo già in due. Siamo già con il 66% dei consensi su tre. Prodi, ha nominato, Prodi, dopo D'Alema Prodi. Non confondiamo le idee. Chiudiamo la questione del calcio. Forse arriva lo schema Allegri alla Juve. Ormai è quasi, c'è, cioè, il super favorito. Dai, colui. Allegri. Tu fai il tifo, ma io faccio il tifo. No, vabbè, ma mi è sempre stato simpatico. Colui che al 70esimo più o meno di ogni partita del Milan, che perdeva o pareggiava di recente, applicava lo schema più applicato e più per il quale prendeva 3 milioni di euro l'anno. Dai, ragazzi, dai! Prendo pure io 3 milioni di euro l'anno, per cui dai. Lo schema Allegri. Vabbè, insomma, di che vogliamo parlare? Vogliamo parlare un pochino di cose un po' più serie, o forse no? La questione delle riforme. Sentite il tono, mi è già scemato. Kate aspetta il secondo bambino. Ah, ecco, se vogliamo passare dal calcio al cazzeggio, eccolo lì. Ah, è una notizia, è un secondo erede. Aspetta, però lo devo chiedere al direttore di Vanity Fair, che qua infatti mette, eccola qua. Ah, ma tu l'hai messa perché sapevi la copertina di Vanity Fair? No. Io non lo sapevo. Cioè, tu non sapevi la copertina di Vanity Fair? No, io non sapevo del secondo bambino. Ah, ecco, no, beh, almeno tu la copertina di Vanity Fair lo sai. Attenzione, è perché c'è colei appunto in copertina di Vanity Fair. Ma il direttore sa sempre tutto, adesso fa il timido. Ma perché hai messo la copertina di Vanity Fair, Kate? Ed è vero che aspetta un secondo bambino? Io non so niente di queste cose. È vero, ufficiale? Non è ufficiale. Ancora, ah, non è ufficiale, però, Paola Saluzzi, dai. Però credo che sia vero. No, c'è un anno dell'erede, diciamo. La copertina non è su lei, non è lei la copertina. È lui. È il principino. È il principino, ma sì. Certo. C'è Kate in bacio al principino. Vabbè, ma andiamo con ordine, dai. Prima parliamo un po' di queste cose che accadono anche al Senato. Avete visto che è comparso Grillo? Intanto no, ieri Renzi ha parlato. Allora, la linea è questa. Sia Renzi che Berlusconi dicono serriamo le fila. Pare che Berlusconi abbia detto chi vota contro è fuori. Chi è che è caduto? Beh, io avrò ospite oggi Augusto Minzoli. Chi è che è caduto? La Saluzzi? La Paola? No. Luca Dini è caduto, è franato sulla costiera di Amalfi. cara Paola, pare che Berlusconi dica chi vota contro è fuori. Io avrò ospite Augusto Minzolini oggi alle 8.45. Ma che sta succedendo? Ieri è stata una giornata bella piena. Sì. Incontri tutti importanti, presenze. Beppe Grillo è andato al Senato, insomma, ha suonato. E ha detto le cose che deve dire, insomma, ricaricando anche i suoi. Casaleggio prende casa a Roma, sì, perché Grillo è stanco, dice, verrà Casaleggio, auguri a tutti i parlamentari. E Berlusconi ha fatto il discorso, mi avete dato fiducia per 20 anni, datemi ancora fiducia, che non c'entra con la fiducia al Senato, ovviamente. Però insomma sono volati un po' di pezzi, no? Cioè, chi c'è, chi non c'è, grazie. Sì, grazie. Oppure come raccontano tutte i resoconti parlamentari, chi non c'è, chi non sta con me. Insomma, pare che Berlusconi sia arrivato ai vaffa, cioè ha detto al senatore Danna, ma forse anche a Capezzone, ma vattene, va al senatore Danna, ma vattene, affa. Così, cioè, pare. Che succede, Luca Dini? Secondo te rischia di più Renzi o Berlusconi, politicamente parlando, all'interno del proprio partito? No, Berlusconi non rischia, secondo me. Non lo so, però non, cioè, se la minaccia è Capezzone, diciamo. No. Dici, può stare abbastanza tranquillo. Vabbè. Oggi c'è un Luca Dini che mena fendenti a destra e a manca. No, è uno che ha cambiato idea abbastanza, diciamo, radicalmente. No, certo, sì, certo. Anche lo scontro, sì, ma anche lo scontro col senatore Danna, ecco, tra Berlusconi e Danna, immagino che politicamente sia un po' più influente Berlusconi sulla scena politica. Però, per dire, questa idea di dover arrivare a minacciare chi vota è contro e fuori, che significato politico ha, secondo te? Ma no, ha significato proprio di ribadire la sua leadership, in un momento in cui ci sono sempre tentazioni a scaricarlo, ma io non vedo in quel movimento alternative attuali, ecco, anche perché lui non le ha volute creare e ribadisce che non le vuole creare. E quindi insomma. Ciao. Sì, certo, bisognerebbe capire cosa c'è dentro questo patto del Nazareno. Tu, Paola Saluzzi, ti sei fatta un'idea. Perché Berlusconi è così attaccato a questa riforma a Renzi? Perché è un. Ti supporto oggi e che cosa mi dai domani? Stare sulla scena politica, comunque sia, in questo momento, vicini. I sostenitori, evidentemente, per di più essendo l'opposizione, ma essere vicini a Renzi e al suo PD rappresenta una garanzia per il futuro, no? Questa è l'idea, insomma, quantomeno l'idea che io mi sono fatta, rappresenta un'idea per il futuro, una garanzia per il futuro. Quindi è stata data una parola, la si porta avanti fino in fondo, dall'altra parte verranno mantenute tutte le parole date, qualora ci siano state, non sappiamo quali ci siano state di fronte e quali siano state, diciamo così, nelle segrete stanze. In ogni caso è una prova, è una garanzia di buona tenuta da parte di Forza Italia quando quando si mette a stare pure all'opposizione accanto al partito, sì, che governa. Certo. Quindi penso che sia questo il tema. Staremo a vedere. Intanto ci sono al Senato 7.500 emendamenti presentati dai dissidenti dei vari partiti. 7.500 emendamenti. Renzi, lo vogliamo sentire, dice: non chiedo il voto per la mia simpatia. Ieri ha parlato così al suo partito. Lo dico con l'assoluta serenità di chi sa che in questi gruppi parlamentari io non vengo a chiedere un tributo alla simpatia personale. Non chiedo, non vi chiedo, non voglio conquistare la vostra simpatia. Vi chiedo una lealtà che so di poter avere non su di me, ma sul paese. Beh, insomma, è interessante, perché questa, non chiedo il voto, cioè non voglio, Luca, non voglio starvi simpatico, non me ne frega niente, ma dovete votare questa riforma perché serve. Ecco, questo è il senso del suo discorso. Ti pare un discorso sensato? Sì, anche perché non gli sta simpatico, lo sa. Come dire, amen. E se ne frega. Dice, però dovete fare questo. Vabbè, intanto, mentre andiamo a sentire le informazioni sul traffico, qua su Sky passano le immagini di Gonte, agghiacciante, e di Allegri. Allegri alla Juve. Cari amici juventini, che ne pensate? Ormai è quasi certo, sarà lui, Massimiliano Allegri, che così ritrova Pirlo. Era tutto un complottone, ha cacciato Pirlo dal Milan per ritrovarselo nella Juve 3-4 anni fa. 24 mattino. Ciao Milan, ma relativamente a quello che ha detto la Boldrini sulle declinazioni al maschile o al femminile, è meglio dire la palla o il pallone? Io non lo so, so solo che quando ci si gioca tutto, in entrambi i casi sono gonfiati e possono fare molto male. Troppe tasse, si muore. Buongiorno signor Milan, per le ferie le consiglio di andare a Castel Volturno, dove si sta molto bene e tutto è pacifico e tranquillo. Milan? Sì, sento gli ascoltatori della segreteria telefonica sempre un po' avviliti. Signori, non siate avviliti, restate un po' su con la vita. È sempre azzurro il cielo, è sempre in fiore il melo. Non siate così arrabbiati e fate una bella risata. Portate un po' pazienza, c'è sempre la speranza. Ciao! Alessà, prova a sentire questa. Renzi il gallo, come sono bello stamattina. Non c'è più Enricoletta, e sono più leggero di una piuma. E intanto il popolo scalpita e mi viene dietro. E anche il caimano e il grillo se ne va per conto di chi. E questa volta sono in alto e voglio stare così. Ciao Alessà, buone vacanze. Mamma mia, ragazzi. Paola Saluzzi, vuoi fare tu un commento? Mi aiuti? Sono tutti dai, canterini. Dai. Gaber mi è piaciuto moltissimo, sì. Insomma, vecchia cantore, che si sente sempre volentieri. L'ultimo signore era scatenato. Sì, abbastanza, infatti, un piccolo calmante, magari anche... Può succedere. Intanto... Agghiacciante. È ritornato, è riapparso. Eccolo qua, Conte, ancora su Sky. Guarda che fanno vedere il video. Vabbè, è riapparso Beppe Grillo. Oh, adesso attenzione perché è un porca miseria. Vabbè, non ho qua il cellulare, ma si tra poco... la brunetta. Adesso, sì, esatto. Mi faccio dire qualcosa da Luca Dini su Grillo, così poi dopo lo twittiamo, gli facciamo passare una bella giornata da Amalfi. Allora, sentite Beppe Grillo. Contro i giornalisti, contro i giornalisti, dice: perderete il lavoro. Questa è la sua grande battaglia, insomma, contro la stampa. Vi sentite un po', Grillo? Ci stiamo giocando la democrazia in questo paese e siete responsabili in questo momento storico. Io vi dico che siete responsabili voi di questo processo. Mi dispiace dirvelo, ma siete corresponsabili di questa situazione, la perdita della democrazia. E mi dispiace perché perderete anche il lavoro. Perché perderete, mi dispiace. C'è uno che gli ha detto peccato, e lui mi dispiace. Ma sentite ancora Grillo contro i giornalisti. Io io non sono, io sono contento se c'è un giornale che fa informazione e si sovvenziona con i suoi lettori. Non sono disponibile più a pagare con le mie tasse una parte del vostro stipendio. Punto. Punto. Posso essere, avere questo diritto di dire. Su questo devo dire, lo dico anch'io, lo dico, Paola, lo devo dire, lo dico. Mm-hmm. Lo devo dire, sono d'accordo anch'io. Sono d'accordo anch'io. Che devo dire? Non deve, questo non deve provocare smottamenti emotivi. No, per carità, per carità, per carità. Caro Luca Dini, allora, che ne pensi della ricomparsa di Beppe Grillo e questa sua ossessione per i giornalisti? No, questa ossessione per i giornalisti. Allora, il discorso dei finanziamenti pubblici, intanto bisognerebbe chiarire quanti e quali sono i giornali che riprendono. E poi bisogna non confondere le due cose. Ci sono dei paesi dove i finanziamenti pubblici sono molto alti e sono in classifica della libertà di stampa ai primi posti, quindi teoricamente i finanziamenti pubblici dovrebbero servire proprio a garantire la libertà di stampa e di opinione. Se così non è colpa del, cioè voglio dire, è un altro problema. Non bisogna confondere le due cose. Devo dire, anch'io non è che mi spaccerei le vesti per i finanziamenti pubblici. Di cui io peraltro il mio giornale non gode come tantissimi altri, però ecco, non bisogna confondere le due cose. Se c'è una stampa succube del potere politico, finanziario eccetera, allora prendiamocela con quello e non sempre con questo discorso che cioè, è un discorso sbagliato, cioè, è l'approccio sbagliato. Vabbè, però non metto un tweet perché sei stato un po' sfumato, non è che hai avuto però in questo caso la penso un po' come te, cioè, allora va bene, allora ti farò passare una buona giornata, non dirò niente contro non hai detto niente contro Movimento 5 Stelle, non ti viene in questo caso. E allora va bene, che dobbiamo fare? Sentite anche Salvini, vi faccio sentire Salvini con Maroni indagato. Alla Lega c'è qualcosa che non va. Maroni indagato, anche se dice sereno, Salvini la prende così. No, do peso e come, e mi girano le palle. Do peso e come, perché basta. La procura di Busto Arsizio è quella che ha indagato per mesi su delle presunte tangenti che la Lega avrebbe preso per vendere degli elicotteri in India. Cioè dice, pensavo all'inizio basta per la soluzione, in realtà basta contro la procura, ecco. Contro la procura? Sì, certo, no, perché pensavo basta, non so, contro Maroni, no, contro la procura che indaga. Vedremo. Va bene, comunque I Love Principino, questo è il titolo. Allora la prima pagina di Vanity Fair c'è proprio il Principino che forse sarà tra poco non più figlio unico. Kate e William, ma è vero che avete messo questa foto con William che si è fatto il trapianto di capelli? C'è anche lui il gatto? No, non siamo noi, quello è Vanity Fair America. Meno male, pensavo di aver sbagliato settimanale, disastro. Computer, vabbè. Vanity Fair America, vabbè, se siete sempre la stessa famiglia, no? Cioè, che si è fatto? Sì, il trapianto si è fatto. No? Ma non so, visto che ci sono delle discussioni su un possibile, diciamo, Photoshop sulla. Sulla crapa pelata, diciamo. Sì, tutto il mondo è paese, lo fecero anche una volta con Berlusconi, una copertina di Panorama, va bene. Comunque, insomma, io quello che leggerò, fate l'ultima tappa di che cosa? Di questo viaggio che voi avete fatto seguendo le rotte della migrazione, stavolta siete in Libia, se non sbaglio, no? Per concludere. Sì, esatto. L'ultimo miglio, poi molto più di un miglio è la partenza, diciamo. Paese dove un tempo venivano schiavizzati con Gheddafi, almeno questa cosa non c'è più? Sì, almeno, insomma, non c'è più parzialmente, però certo è vero che quando si dice almeno una volta li tenevano lì, non era meglio. Insomma, bisogna saperlo, perché cioè, no, anche sapere come li tenessero, certo, perché se una cosa viene nascosta e qui non arriva, non è che significhi che non c'è, cioè, no, è chiaro. Ma direttore, questo piace molto, cioè se lì viene buttata lontano da casa non funziona, esatto. Il concetto è questo, scusate, non è mio cortile, è vero, in Libia per tanti anni con Gheddafi non c'era il problema, nel senso che non lo si vedeva perché li mettevano nei campi di lavoro e questi migranti venivano schiavizzati, ma tenuti anche lì, torturati, utilizzati. Ma una prossima copertina su Papa Francesco, direttore, quando oh, attenzione, siamo alla richiesta di copertine. Come nei vecchi DJ

dallo Stato, ma solo per garantire la sicurezza dei lavori nel cantiere di Chiomonte, del tunnel esplorativo della TAV. 10 milioni di euro perché si lavori lì, per mandare l'esercito, per mandare la polizia, mandare i carabinieri, per tutelare gli operai, perché sapete c'è anche una forte dibattito e una forte contestazione nei confronti di questa opera. 10 milioni di euro solo per garantire che si faccia un'opera che è stata scelta da un paese di fare. Insomma, mi sono chiesto di fronte a questa cifra se sia un paese normale l'Italia. Intanto questa domanda la voglio girare al direttore generale di LTF, cioè la società che è compartecipata tra Italia e Francia per fare questo tunnel esplorativo e poi per collegare la TAV. Si tratta di Maurizio Bufalini, che saluto. Buongiorno dottor Bufalini, eccoci qua. Le pare un paese normale quello in cui si deve spendere 10 milioni ma solo per garantire la sicurezza dei lavori? Sono pienamente d'accordo con lei, è una situazione veramente incredibile quella che si è venuta a creare questi anni in Val di Susa, in cui lo Stato è costretto a spendere delle cifre così elevate soltanto per la difesa del cantiere e dei lavoratori che ci sono dentro, da attacchi violentissimi che specialmente nel 2011 hanno raggiunto delle violenze veramente inusitate, incredibili. Ci sono stati anche dei sabotaggi, ricordiamo, imprenditori che sono stati attaccati. Sì, diciamo un clima in Val di Susa che in questi anni è veramente da indegno di un paese civile. Senta, ricordiamo che l'opera totale dovrebbe costare, se non sbaglio, 8 miliardi e mezzo di euro, il 40% dati dall'Unione Europea, ma c'è una stima a questo punto, in visti anche i tempi di realizzazione, di quanto potrà costare la sicurezza dello Stato? Se manteniamo questi ritmi, quanto verrà a costare, che poi li paghiamo noi? Diciamo, questo è un ragionamento piuttosto complesso, non è semplice da fare. È ovvio che ci saranno... se la situazione si dovesse mantenere nelle condizioni in cui ci siamo trovati finora, anche se devo riconoscere che la forte attività di prevenzione della Questura di Torino e la presenza forte della magistratura che poi ha dato il segno del fatto che chi fa cose contro la legge poi paga. Io mi auguro che riduca notevolmente la dimensione di quello che sarà. È chiaro che questi 10 milioni sono cifre che sono servite per realizzare recinzioni molto differenti da quelle che normalmente si trovano in un cantiere. Le faccio soltanto l'esempio: noi abbiamo 6 chilometri di recinzione intorno al cantiere, veramente molto robuste, perché sì, servono per non far entrare gente che si presenta con cesoie, con filo spinato, con impianti di illuminazione, mobili fissi, con telecamere a ricerca anche per verificare chi si avvicina dal bosco di notte, è tutto fatto in funzione della sicurezza. È chiaro che una gran parte di queste cose che oggi già sono presenti non dovranno essere rifatte in futuro, quindi ci saranno... Sì, però c'è la presenza anche di, ricordiamo, costante di esercito, polizia, carabinieri, che stazionano lì, perché altrimenti... Sì, noi abbiamo mediamente almeno 200 militari che stanno quotidianamente dentro al cantiere. È un cantiere che sembra più un bunker che un cantiere. È un cantiere di fatto militarizzato. Comunque, questa cifra, Bufalini, mi faccia salutare altri due ospiti. Il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Buongiorno Massimo, ben ritrovato. Buongiorno. E saluto Livio Pepino, ex magistrato, oggi direttore della casa editrice del gruppo Abele, che varie volte abbiamo chiamato, uno dei firmatari anche dell'esposto fatto al Tribunale dei Popoli dal Controosservatorio della Val Susa. Magistrato, buongiorno dottor dottor Pepino, e da sempre, dal primo giorno, contro la realizzazione del treno ad alta velocità. Intanto, ecco, Massimo De Manzoni, voi ieri avete messo questa cifra su Libero dicendo anche che il direttore Belpietro ha detto ci vorrebbe una legge, perché no, di responsabilità quasi dei sabotatori, cioè facciamo pagare a chi eventualmente venisse condannato perché è preso a fare qualche azione contro di sabotaggio, addirittura vorreste questo? Sì, l'idea era questa, anche se poi è più un'idea dal punto di vista diciamo così di principio che poi di pratico, perché io dubito poi che una cifra del genere possa essere poi recuperata rifacendosi su chi ha svolto gli attacchi. Certo, la magistratura sta parlando di terrorismo nel caso, in alcuni episodi di attacchi in Val di Susa, ma questo non vuol dire che poi alla fine si riesca a recuperare questa somma. Sarebbe un punto di principio, giusto per stabilire che quando uno Stato decide di fare una cosa, poi non è che si possa mettere i bastoni tra le ruote nel modo in cui viene fatto in Val di Susa, sì. dove io posso anche capire le ragioni del dissenso. Alcune delle ragioni del dissenso. Però, ripeto, è il fondamento di uno Stato civile e democratico. Nel momento in cui viene presa una decisione, poi bisogna andare avanti. No, ma infatti questa, secondo me, è la differenza. I risarcimenti, è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto da quel punto di vista. Non è che si possa bloccare tutto per questo. Io infatti prendo, diciamo, questo spunto per la tua, di tua considerazione, per rispondere anche ai tantissimi che già via SMS mi scrivono al 349-238-6666 a dire allora tutte le volte che sono le partite di calcio, siccome io seguo il calcio e molti mi scrivono a me non me ne frega niente del calcio, eppure paghiamo l'ordine pubblico, la sicurezza, tutti ovviamente con le nostre tasse per garantire la sicurezza negli stadi di calcio, a noi non ce ne frega niente di calcio. C'è una piccola differenza, cari ascoltatori, piccola, ma con questo vorrei arrivare anche a Livio Pepino, che una partita di calcio, se voi la seguite o non la seguite, questo è una scelta, ma è un qualcosa che è stata socialmente accettata da tutti. C'è il campionato di calcio, la TAV, si può essere contestatori, si può essere contrari, ma in una democrazia, come diceva De Manzoni, è stata scelta a maggioranza da un parte di uno Stato, da parte di un governo, da parte di vari governi, da parte dell'Unione Europea di farla. E non so, Livio Pepino, lei che ne pensa, al di là dell'essere contrario, trova giusto che una minoranza, perché comunque è una minoranza i contestatori della Val di Susa rispetto a quello che magari potrebbe essere il pensiero di tutti gli italiani, debbano farci pagare questi costi perché bisogna militarizzare un cantiere? Buongiorno a lei. Allora, io intervengo senza avere sentito il pregresso, perché abbiamo problemi di collegamento, quindi forse adesso magari dico delle cose che non... Vabbè, allora, dica la sua. La sua domanda, e quindi sono in grado di rispondere. Ma vede, sta accadendo oggi quello che alcuni di chi si oppone al TAV, tra cui il sottoscritto, andiamo dicendo da anni. Le grandi opere pubbliche si fanno in tutte le democrazie con una concertazione e con una partecipazione della popolazione. Questo in Italia non è accaduto. È accaduto in Francia, dove c'è una legge sul débat public in cui c'è stata un'ampia partecipazione delle comunità locali, anche se a mio avviso insufficiente, e si è arrivati a delle soluzioni abbastanza concordate, anche se in questo momento ci sono delle contestazioni in atto. In Italia non è accaduto nulla di tutto questo, noi lo chiediamo da almeno 10 anni, in tutta la storia è sempre stato così, i conflitti costano molto di più delle soluzioni pacifiche. Se si vuole cercare una soluzione pacifica, una soluzione immediata, se la si voleva cercare, questo sarebbe stato possibile. È stato chiesto decine di volte, la risposta è sempre stata il muro contro muro, la militarizzazione. E dopodiché questo accade, io l'ho detto ripetutamente, lo ripeto per la 100ª volta, sono in tutta la mia storia contrario alle forme di violenza e quindi non approvo metodi violenti. Ma che tutto questo sia accaduto non oggi nella vicenda del TAV, in tutta la storia, È un dato, almeno questo bisogna. Quindi lei sta dicendo in qualche modo che questo è il prezzo necessario da pagare laddove non c'è stata una collaborazione, una concertazione, un coinvolgimento delle popolazioni. Però si è detto tante volte, Pepino, che se si vuole il consenso di tutti non si fa mai niente. Questo non solo in Italia, non si farebbe mai niente da nessuna parte, perché nessuno non si può mai ottenere il 100% di consenso. Nelle cose. Ho fatto l'esempio della Francia, che è esattamente la parte, come dire, corrispondente, sì, a quella italiana. Con un'ampia consultazione precedente le cose sono andate altrimenti, non perché i francesi siano più miti degli italiani o a Saint-Jean de Maurienne siano più miti che a Bussolino o a Susa. Questo non credo che sia evidente a chiunque guardi con attenzione le cose. Il problema è come si gestiscono le situazioni che portano, possono portare a delle situazioni di conflitto. Allora, sarebbe ma questo nelle situazioni nazionali come nelle situazioni internazionali. Vediamo però, allora, Pepino, no, ma è interessante questo punto. Vediamo se adesso abbiamo migliorato l'audio. Vorrei che le rispondesse proprio Maurizio Bufalini, che, come dire, è il direttore generale della società che sta gestendo proprio da Susa a Saint-Jean-de-Maurienne quei 65 chilometri che dovranno essere costruiti per unirsi, per creare il collegamento col TAV. Dottor Bufalini, ha sentito l'opposizione di Pepino a dire è chiaro che è così, non si è voluto dialogare e adesso è tutto militarizzato, non possiamo imputare a noi questa colpa. Ma io ritengo che, diciamo, concettualmente, in termini generali, il dire le opere vanno concertate sia un ragionamento correttissimo. Io credo che non ci sia stata un'opera che è stata maggiormente concertata della Torino-Lione, cioè sono 10 anni che si sta discutendo su qual è il miglior progetto. È stato istituito dallo Stato dopo il 2005, quando comunque per dei movimenti popolari il cantiere fu chiuso e il progetto fu abbandonato. È stato rifatto un processo autorizzativo che dura ormai da 6 anni, 7 anni. È stato istituito un osservatorio a cui hanno aderito tutti quanti i rappresentanti dei comuni di tutta quanta l'alta e la bassa valle di Susa, chi non ha voluto partecipare, diciamo, lo ha fatto per sua scelta, e sono state fatte una riunione a settimana sul progetto da 6 anni, quindi stiamo parlando di alcune centinaia di riunioni sul progetto, quindi non c'è una sola virgola di questo progetto che non sia stata ampiamente dibattuta, e le scelte tecniche che ne sono uscite fuori sono delle scelte che la società LTF ha acquisito dall'osservatorio direttamente, sì. Quindi, diciamo, tra l'altro, dice, più di così non si poteva fare, però effettivamente in Francia non ci sono queste contestazioni, perché secondo lei in Italia sì? Guardi, io credo che ritengo sia una questione di contesto, cioè in Francia la galleria, il tunnel, consideri che è lungo 57 chilometri di galleria e poi ci sono 2 chilometri all'aperto in Italia, 2 chilometri e mezzo all'aperto in Italia e altri 2 chilometri all'aperto in Francia. Quindi di questi 57 chilometri, tra l'altro, solo 12 chilometri sono realizzati in territorio italiano. Il cantiere dove stiamo lavorando adesso è un cantiere che sta in una valle molto piccola, molto chiusa, che non dà, diciamo, non è visibile da nessuna parte del territorio se non andandoci dentro, ed è attraversato da un viadotto dell'autostrada alto 40 metri. Quindi, diciamo, è un cantiere invisibile in una zona già abbondantemente sì, compromessa, insomma, sì, da un punto di vista ambientale. Io personalmente ritengo che le critiche che vengono fatte al progetto, quando sono costruttive, portano sempre a un miglioramento. Ma qui non c'è più una critica, qui c'è un no a priori, a un progetto. Un no a priori che, tra l'altro, diciamo, rispetto a questa bandiera del NOTAV, la bandiera croce bianca col treno crociato, sì, ormai si nascondono dietro, si schierano dietro tutti i no a qualsiasi cosa. Diciamo. Noi siamo costretti a vedere, diciamo, l'ultimo è stato sabato scorso, sì, attacchi al cantiere, ormai di poche sparute frange di persone che però, provenienti magari da fuori che però dice costringono a militarizzare, certo, tutto, cioè. Certo. No, facciamo così, fermiamoci un attimo che c'è la pubblicità, riprendiamo poi con da Livio Pepino, da Massimo Nemanzoni, siamo con Maurizio Bufalini per raccontare insomma queste spese della TAV, nel senso del 10 milioni, questa è la cifra da cui siamo partiti, 10 milioni solo per garantire la sicurezza del cantiere di questa opera. 24 mattino. Allora, alle 8:39 minuti stiamo discutendo un po' dei costi o costi particolari della TAV con la sicurezza che costa già 10 milioni. Finora molti messaggi che ci scrive tra Milano e Roma, la TAV c'è anche attraverso l'Appennino, ma solo in Val di Susa ci sono motivate ragioni di ostilità. Ci scrive Fabrizio da Pavia, altri da Bolzano, oppure Ettore, una situazione simile anche qui da noi per la Ro Monza, eppure nessuno protesta, non lo so. Comunque Livio Pepino ha sentito Bufalini dire che in realtà c'è stato un consenso, ci sono stati dibattiti per anni, tutto è stato messo a punto con chi ovviamente mi dispiace contraddire il dottor Bufalini, ma le cose non stanno così. È stato costituito, è verissimo, alla fine del 2005 un osservatorio che infatti per il primo anno è funzionato in maniera adeguata, dopodiché sono stati estromessi tutti i comuni che erano contrari all'opera e il confronto non c'è stato. E allora, mascherare come un confronto quello che tale non è stato, magari che si chiama addirittura accordo di Pracadina, quello che avrebbe dovuto essere l'accordo dei comuni, che è firmato solo dal commissario Virano. Sì. Allora qui abbiamo davvero una presentazione dei fatti, che è una presentazione dei fatti che non corrisponde al vero. C'è stata una finta concertazione, c'è stato un finto confronto solo tra chi era d'accordo. Ora, il dialogo si fa tra posizioni che possono essere diverse, non si dice chi è d'accordo ci sta e chi non è d'accordo è fuori, altrimenti questo non è un confronto. Diciamo, queste sono posizioni. Io vorrei chiedere conforto a Massimo De Manzoni come operatore del mondo dell'informazione, da vice direttore di Libero in questo caso, quante opere di cui si è raccontato in Italia che sono così, cioè il rapporto delicato equilibrio tra un consenso che ci deve essere delle popolazioni locali, il dovere però di uno Stato anche di decidere qualcosa e fare qualcosa se si decide di fare, se si pensa che sia strategicamente opportuno. Non ne usciamo mai come un paese normalissimo, Massimo? Ma ce ne sono state tante di opere fatte in Italia che hanno scontentato, perché parliamoci chiaro, le popolazioni locali che vedono sconvolgere o comunque manomettere il proprio territorio non sono mai contente. Normalmente vengono fatte opere di compensazione di vario tipo a favore dei comuni attraversati, per cui magari rinunci in parte a qualcosa dal punto di vista estetico, diciamo così, ma in cambio hai strade o opere primarie, palestre, piscine o quanto di volta in volta la comunità locale contratta e ottiene. Solo in Val di Susa negli ultimi 20 anni, io penso, non è successa una cosa del genere. E mi rifaccio a quello che diceva prima il dottor Bufalini, la netta sensazione è che lì si siano innestate cose molto diverse dagli interessi locali, che stia diventando una palestra di violenza e di terrorismo per gente che arriva da tutta Europa addirittura, o comunque sicuramente da tutta Italia, diciamolo, e sempre... che quindi abbia un po' stravolto il senso iniziale della protesta. O meglio, specifichiamolo, ovviamente non è il caso di Livio Pepino, che ha sempre detto di fuggire la violenza, eccetera, però ci sarà anche una strettissima minoranza, però effettivamente qualcosa di strano in qualche modo sta succedendo attorno a quest'opera. Fatemi sentire l'ascoltatore Stefano dalla provincia di Roma. Buongiorno, sì, Stefano. Buongiorno a tutti. Ma io non so perché siamo a discutere di questa cosa della Val di Susa, cioè credo che sia uno dei pochi esempi in cui i cittadini a un certo punto hanno cercato di prendersi quella parte di democrazia che spetta a loro. Io discuterei della Reggio Calabria-Salerno, ad esempio, cioè quello non è normale, perché voi dell'informazione non seguite dei criteri di priorità nell'informazione? Ho capito, parliamo, ma Stefano, di questo. Adesso la, TAV, la TAV fa vendere i giornali, ma in realtà... Che dobbiamo fare? Vuol cambiare il tema della trasmissione? No, però, è... però capisce, cioè, se andiamo avanti così, a colpi così, insomma, l'informazione non sarà mai seria, poi diamo, diamo ragione a quelli che dicono che sì, siamo al 49esimo posto. Va bene, d'accordo, ma no, non mi faccia un processo sulla scelta di un tema della trasmissione, perché dire, devo parlare della sanità. Sì, voglio dire che l'unica cosa che mi dica qualcosa. Sì. In quel territorio, se mi fa parlare, l'unica cosa di strano che c'è è che quei cittadini in qualche modo hanno avversato quest'opera, che scientificamente e dal punto di vista economico tutti quanti i grossi economisti, quelli seri europei, sì, hanno detto che era un'opera inutile. Si è parlato di... capisce qual è il discorso? Quello non è normale. Vabbè, ma ho capito, ma è... questo, vabbè, Stefano, è la sua opinione, è la sua opinione, sì, come sì, una questione di... è la della mia opinione, ma anche Calabria, l'opinione di chi poi dovrà convivere con quella situazione là. Va bene. E giustamente si ribella. È normale ribellarsi. Stefano, grazie. Ma ha sentito, Bufalini, è normale ribellarsi, e soprattutto l'annosa questione, però qui adesso lei mi ribatterà che invece non è così, e che molti, anzi secondo Stefano tutti gli economisti più influenti dicono quest'opera è inutile, stiamo facendo un buco nella montagna per niente. Guardi, io, diciamo, questi ragionamenti sono ragionamenti che vengono fatti sempre, vengono sempre sbandierati. Io credo sia molto diciamo molto sbagliato ragionare in questi termini, cioè l'opera... sono 20 anni che si parla di quest'opera, non c'è mai stato un governo italiano che abbia ritenuto che quest'opera fosse inutile, è sempre stata una delle priorità dell'Unione Europea. Fino allo scorso periodo di finanziamento l'Europa finanziava il 27% quest'opera, dopodiché sono stati ridotti i progetti da finanziare da 27 a 9, tra questi 9 prioritari in Europa continua a esserci la Torino-Lione, il cui finanziamento è salito al 40%, quindi diciamo che poi tutti questi economisti dicano le loro cose, va bene, ognuno ha le sue idee. Sì. Ora, io penso, tra l'altro, personalmente, questo diciamo va al di là del mio ruolo o del fatto che rappresento quest'opera, io credo che i colleghi, i grandi collegamenti hanno sempre fatto bene all'umanità e alle popolazioni, cioè avere un'opera che tra l'altro tutti quanti nell'arco alpino, tutti quanti gli stati confinanti stanno favorendo, già sono stati scavati 2 tunnel di base in Svizzera, è in corso il tunnel di base al Brennero per il collegamento con l'Austria, diciamo senza nessuna recriminazione da parte delle popolazioni. Da un punto di vista, se vogliamo entrare proprio in un minimo di ragionamento tecnico e trasportistico, la Svizzera, che ha la metà dei traffici che passano fra l'Italia e la Francia senza il finanziamento europeo, perché siccome non è nell'Unione Europea se l'è fatti da solo, se l'è pagati da sola i progetti. Ora, soltanto il progetto della Torino-Lione è un progetto inutile e dannoso. No, ma è chiaro, e su questo è un dibattito che non finirà mai. Io vi devo fermare e vi devo ringraziare Maurizio Bufalini, Livio Pepino e Massimo De Manzoni. Voglio salutare, dopo il traffico, subito da lui, il senatore Augusto Minzolini, Forza Italia. Buongiorno, senatore. Buongiorno. Eccoci qua allora col senatore Augusto Minzolini. Senatore, allora, com'è andata questa riunione? Non mi dica che è andato tutto bene, perché raccontano i giornali di parole grosse che sono volate anche da Silvio Berlusconi. Ma no, ma nel dibattito non c'è, di fatto non è successo granché, perché il presidente, dopo qualche giorno di riflessione, ci ha detto che per lui l'idea di andare avanti con queste riforme è importante, è essenziale. E poi ci sono state, diciamo, quelle code, però io francamente ti giuro, non era a quel punto non era un dibattito, nel senso che chi è andato via, e quindi non è che è stato presente. No, diciamo. Ma questo sì. Però lei rimane sul punto, cioè a dire non la firma, non la vota questa riforma. No, io ho detto, ma adesso siamo, diciamo, all'inizio del dibattito. Io non ho votato contro in commissione. E ancora adesso continua a ripetere che il fatto che questo Senato non sia eletto direttamente non mi convince. Ora vediamo quello, oggi parlerò, esprimerò, diciamo, il mio giudizio, che ovviamente sarà negativo, poi naturalmente ci sarà l'aula, ci saranno gli emendamenti e poi alla fine valuteremo. Sì, ce ne sono tantissimi. E alla fine vedremo qual è il risultato, cioè cosa uscirà fuori dall'esame dell'aula. Poi a quel punto lo farà un punto. A questo sì, però pare che Berlusconi abbia detto anche a lei personalmente, e finiscila, insomma, Minzolini, che da 20 anni faccio politica. E lei gli ha detto: io da 35 anni ne scrivo di politica e forse ne so anch'io qualcosa. Però, come dire, chi non la vota è fuori. Beh, ma qui abbiamo detto, diciamo, è stata una cosa di cronaca, nel senso che quando Berlusconi è arrivato in politica, beh, lei lo sa, lo devo dire io già scrivevo da molto tempo di politica, pure a un certo livello, per cui ho soltanto ripetuto quello che è. Solo che la questione non è una polemica. No, ma è chiaro, ma l'idea di Berlusconi di dire chi non la vota è fuori dal partito, un'idea che la convince, cioè un'idea concreta secondo lei? Ma questo io non lo so, beh, io ho sempre pensato che Forza Italia fosse un partito liberale, perché lo ripetiamo in tutti i modi, e devo dire che finora lo ha dimostrato ampiamente. Immagino soltanto la mia vicenda nella commissione affari costituzionali. Io lì ho potuto portare avanti questa mia posizione in massima libertà, a differenza, non so, di Mineo, che invece è stato preso ed è stato estromesso da parte del vertice del PD. Per cui poi uno può dire, sai, nelle riunioni si dice qualunque cosa, poi vediamo. Io parto da un presupposto: noi non è che stiamo parlando di una leggina, di una leggetta, di una cosa che invece sarebbe assolutamente necessaria per quanto riguarda la disciplina del partito, non so, il voto di fiducia o contro un governo. Mi segue? Sì, no, certo, la riforma, allora, la riforma dello Stato. Stiamo parlando della riforma costituzionale. E tra parentesi, se io devo fare ritornare, diciamo, con la memoria, ma non molto tempo fa, addirittura un anno fa, io, quando fu presentata la riforma costituzionale dell'articolo 138 da parte di Quagliarello, che allora era un ministro di Forza Italia dentro il governo Letta, di cui Forza Italia faceva parte, cioè era in maggioranza, beh, io che non ero d'accordo, perché di fatto quel tipo di riforma che si prospettava non affrontava un tema che poi si è dimostrato nodale come la giustizia, mi sono alzato, ho detto che non ero d'accordo e ho votato contro. Non so se nel giro di un anno sono cambiate le abitudini, ma la riforma, ma io resto alle abitudini di sempre. La riforma è chiaramente importante, però ci sono i due leader dei partiti, Renzi da una parte e Berlusconi, che ha firmato questo patto del Nazareno, a dire dobbiamo serrare i ranghi e dobbiamo fare questa riforma. Io sono d'accordo, ma io nel senso, da questo punto di vista, cioè, però stiamo parlando, ecco, di una cosa particolare. Le faccio un altro esempio, al di là ho fatto un riferimento a un esempio di un anno fa, facciamo riferimento a quello classico, all'Assemblea Costituente. Beh, l'Assemblea Costituente che di fatto ha scritto la Carta Costituzionale che noi adesso stiamo riscrivendo malamente. Beh, all'epoca fu adottato il regolamento della Camera d'allora, perché privilegiava il voto segreto. Sì. Per quale motivo? Perché attraverso il voto segreto si dava la possibilità ai vari rappresentanti delle diverse forze politiche di poter votare secondo coscienza e anche, diciamo, al di fuori della disciplina di partito, senza per questo creare problemi politici. Quindi c'è tutta una natura che appartiene esattamente a ogni tentativo di riforma della Costituzione, che tiene conto di questo, diciamo, di questa libertà di coscienza. Non per nulla, nella maggior parte dei casi si creano, diciamo, delle assemblee costituenti proprio ad hoc, proprio per evitare che ci siano dei condizionamenti. Allora, io già ho trovato un inedito nella storia del nostro paese, ma non solo, che il governo detti tempi e contenuti di una riforma, perché, come diceva il mai abbastanza citato Calamandrei, il governo dovrebbe restare fuori dalla porta. Ma se noi assumiamo un meccanismo per cui addirittura c'è una sorta di voto di fiducia sulla Costituzione, perché di questo si tratta, se no che succede? Se no si va a votare, allora significa che noi stiamo andando è un po' inclinando non verso una riforma costituzionale, lo dica lei su che verso che cosa no non lo so, ma io quello che dico è questo. Allora, dovete sapere, cari ascoltatori, che Augusto Minzolini inventò anche un un genere di scrivere, di modo di scrivere della politica, il cosiddetto retroscena, quello che oggi è retroscena. Che mi lasci dire 30 anni fa. No, certo, 30 anni fa. Però allora, Augusto Minzolini, che retroscena scriverebbe su questo patto del Nazareno? Cioè, che c'è scritto, che si sono detti, che gli ha promesso Renzi a Berlusconi per dire sì alle riforme? È caduta la linea. Annaggia. È caduta la linea sulla domanda clou. Vabbè, che dobbiamo fare? Niente. Proviamo a vedere se lo recuperiamo, almeno questa domanda, che sennò finiamo poi l'ora e poi dobbiamo parlare di povertà. Eccolo qua, Minzolini, ecco, l'abbiamo recuperato. C'è un minuto. Che scriverebbe? Che c'è in questo patto del Nazareno? Che ha promesso Renzi a Berlusconi che noi non sappiamo? Guarda, questo non te lo so dire. Io penso veramente penso che su questi argomenti qua qualunque patto è un patto contingente. Che ti posso dire? Io penso una cosa, questa la credo, perché è l'unica cosa che mi fa capire perché ci sia questo atteggiamento così tetragono da parte del capo del governo. Cioè, ti faccio un esempio: il capo del governo potrebbe, ad esempio, accettando l'idea di un senato eletto, è un senato che sia direttamente dai cittadini, di avere una maggioranza del 90%. Cioè, che sarebbe una cosa fondamentale, perché tu sai, il grado di successo di una riforma costituzionale è determinato anche dal grado di condivisione. Più è largo e più una riforma dura. Sì. La riforma del titolo quinto 10 anni fa è stata approvata a maggioranza e durata 10 anni. La riforma del titolo sesto è stata approvata a maggioranza e non è neanche avuto luce perché il referendum l'ha bocciata. Allora questo sarebbe un dato. Perché non lo fa? Allora mi pongo che, visto che lui è più attento alla tempistica, a quanto pare, che non è contento, che lui voglia arrivare a una riforma pronta per i primi mesi del prossimo anno, per avere poi la possibilità di andare a votare. Di andare a votare. Questo è lo scenario. Vabbè, ma chissà davvero, invece, patto contingente, chissà davvero che c'è in questo patto del Nazareno, nessuno poi lo sa. Comunque, grazie a Augusto Minzolini, senatore Forza Italia. E staremo a vedere, da lunedì forse si vota tranquilli. Era la settimana decisiva questa, ma non lo sarà. La prossima, la 64esima. Chi lo sa? 24 mattino. Eccoci qui alle 9:07, cari ascoltatori, andiamo in onda fino alle 9:30 e vogliamo parlare un po' di povertà, nel senso che ieri, quando ho letto i titoli dei giornali a dire poveri record, c'è un esercito di 6 milioni di poveri, insomma, ho detto, beh, questo è un tema di cui possiamo discutere, di cui possiamo dibattere, tenendo sempre conto di una cosa: sono dati dell'Istat, e facciamo anche una premessa, è una realtà questa italiana, ovviamente, che prevede molte sfaccettature, molte situazioni complesse, variegate. Tra coloro che ci stanno ascoltando ci sarà anche chi sta programmando la vacanza a Porto Cervo, a Cortina, in Ferrari, ma c'è anche, invece, ci sarà chi si ritrova nella situazione ben descritta ieri, per esempio, da Repubblica, che prevede quello che considerato dall'Istat la soglia per entrare nella cosiddetta povertà assoluta, vale a dire, per esempio, una famiglia di 4 persone che vive in meno di 60 metri quadri in affitto, non riesce ad assicurare pasti decenti ai figli, cioè 1300 calorie a persona, a testa, quindi al giorno, una famiglia che non sa come pagare i ticket per le medicine, che rinuncia al dentista, ripara gli abiti vecchi, non fa vacanze, non va a pranzo fuori, fatica con le bollette, non aggiusta la lavatrice, magari se ha riscaldamento autonomo risparmia anche sul riscaldamento. Questa è la famiglia povera in senso assoluto, dati dell'Istat, o meglio parametri dell'Istat. Come fare e che cosa fare? Ne vogliamo discutere con Serena Sileoni, che è vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno e benvenuta, ben ritrovata. Buongiorno a voi. Così come saluto Cristiano Gori, che insegna politica sociale alla Cattolica di Milano e anche l'ideatore dell'Alleanza contro la Povertà. Buongiorno professor Gori, eccoci. Buongiorno a voi. Intanto io partirei da lei, perché lei ha dato anche una cifra, se non sbaglio. Io ho letto una sua intervista molto interessante su Avvenire, a dire basterebbe 1,5 miliardi di euro da investire, e ci spieghi come e dove, per rilanciare una lotta seria contro la povertà in Italia. Non si tratta di rilanciare, si tratta di cominciare a fare quella lotta alla povertà che in Italia non è mai stata fatta. Mai, dice lei? No, perché questo è un punto fondamentale. In Italia dal 2007 al 2013 i poveri passano da 2,4 a 6 milioni, e intanto il welfare italiano contro la povertà, che era già debole nel 2007, è stato ulteriormente indebolito. Per ovviare a questa situazione è necessario introdurre gradualmente quella misura nazionale contro la povertà assoluta che esiste in tutti i paesi. Come? Cioè, come si potrebbero investire questo 1,5 miliardi? E perché questa cifra, allora, intanto lei fa? Allora, la cifra è per il primo anno, perché per arrivare a una misura nazionale rivolta a tutte le persone in povertà assoluta ci vogliono tra i 6 e 7 miliardi, lo 0,4 del PIL. Questo è un dato in linea con quello che viene speso negli altri paesi. Evidentemente stanziare 6 o 7 miliardi in un anno è irrealistico, quindi l'idea è iniziare con un piano progressivo che in 4 anni gradualmente arrivi a raggiungere tutte le persone in povertà assoluta. Quindi 1,5 miliardi per cominciare nel primo anno. E in che cosa andrebbe questo 1,5 miliardi in investimenti in welfare, immagino, ma di che tipo lei immagina? Due cose. Se io cado in povertà assoluta ho bisogno da una parte di tamponare il problema economico, quindi un trasferimento monetario, un contributo economico. Dall'altra parte io ho bisogno di essere aiutato a ricostruirmi una vita, quindi competenze e i servizi necessari per un diverso percorso di vita. Quindi l'intervento dei servizi di welfare locali, dei comuni, del terzo settore, dei centri per l'impiego, che mi aiutano mi danno delle competenze o mi aiutano a riorganizzare la mia vita affinché io possa abbandonare dalla povertà. Quindi tamponare il problema economico e costruire un percorso di vita diverso. È interessante l'impostazione. Io ho chiamato voi, l'idea era quella di impostare un'idea a c'è chi dice bisogna investire di più in welfare, come il professor Gori. Immagino che Serena Sileoni possa dire: certo, però questi soldi, per carità, non troviamoli da eventualmente nuove tasse, non troviamoli, magari troviamoli con una cura dimagrante dello Stato, con una spesa pubblica più efficiente, in modo da investire, liberare risorse da una parte e investirle in qualcosa che, come il professor Gori può definire, è un recupero, diciamo, delle persone che sono finite in povertà assoluta. Questi due aspetti sono in contrapposizione oppure si possono fare contemporaneamente, Serena Sileoni, cioè dimagrire lo Stato per investire di più nei confronti delle persone che hanno bisogno? Io direi che sono in contrapposizione e lo dico ancora più convinta dopo aver sentito l'interessante affermazione del professor Gori, che non è mai stata fatta in Italia una politica di lotta alla povertà, perché se così è, se non è mai stato fatto, vuol dire che il welfare dal 1948 a oggi non ha funzionato, e considerando che ci dicono che paghiamo le tasse, cioè che metà del nostro reddito, anche qualcosa in più, tutti gli anni se ne va per finanziare il welfare, evidentemente non ha funzionato se non ha combattuto la povertà. Allora delle due l'una: o utilizziamo i soldi, la ricchezza dei cittadini, dei residenti anzi, per finanziare politiche che fino adesso hanno dimostrato di essere più un meccanismo di gestione del consenso che non un modo di avviare la solidarietà pubblica, oppure scegliamo la strada di pensare che la povertà si combatte soltanto in un modo, cioè lasciando le persone più ricche di quello che non siano col prelievo erariale. Mi sembra che siano due strade alternative di cui appunto la mancanza di una vera lotta alla povertà finora già delinea una scelta di preferenza. Una scelta di preferenza. Lo so, professor Gori, è chiaro che il timore, cioè, mi faccia capire, lei fa una critica a come è stato gestito il welfare in questo momento, fino a quest'oggi, oppure non ci sono abbastanza soldi per il welfare, nonostante Serena Sileoni ci dica che il 50% del nostro reddito va lì? Qual è il tipo di critica che fa? Perché le hanno fatto una critica anche l'Avvenire, a dire sta rischiando di creare un nuovo popolo di assistenzialisti e comunque di un assistenzialismo di Stato che ha prodotto anche sacche di mala politica in gran parte del paese nei nostri anni. Secondo me sono usciti due punti fondamentali. Da una parte, in termini di, diciamo, spesa pubblica, se noi confrontiamo la spesa pubblica per il welfare italiana con quella degli altri paesi, tradizionalmente copre di più alcune voci e copre meno altre, quindi non è che il welfare italiano è sottofinanziato, è la lotta alla povertà che è sottofinanziata. Questo è il primo punto. E questi soldi del welfare dove vanno? Cioè a chi vanno? A cosa vanno? Vanno appunto a politiche assistenzialiste sbagliate, evidentemente. No, tradizionalmente vanno alla previdenza, a tutto quello che lei, se lei confronta, diciamo, i dati italiani, noi abbiamo che rispetto agli altri paesi europei complessivamente spendiamo un po' meno degli altri, ma non molto meno, spendiamo molto di più sul pacchetto previdenza, circa uguale sulla sanità e molto meno sulla povertà. E l'altro punto, secondo me, è cruciale, il rischio assistenzialismo. Molti dicono non si può fare una misura a favore dei poveri perché se noi la facciamo poi diamo dei soldi ai poveri che poi non si impegnano più a cercare lavoro, oppure va a finire che vogliamo aiutare i poveri ma poi, poiché l'amministrazione pubblica locale è molto debole, questi soldi finiscono ai finti poveri. Questo è il nocciolo della questione. Certo. E infatti la nostra proposta prende molto sul serio questo punto e dedica particolare attenzione a tutti gli aspetti attuativi. Oggi il punto non è sapere cosa fare, è riuscire a farlo. La sfida è, per esempio, mettere in campo una serie di controlli sul territorio affinché questi soldi auspicati nuovi per i poveri vadano veramente ai poveri, controlli sulle condizioni economiche. No, è chiaro, è chiaro. A questo assolutamente sì. Io su questi dati, peraltro, Serena Sileoni, lei questo dato del 6 milioni, questo esercito di poveri assoluti, lo ricordiamo, no? Povertà assoluta che è misurata nel 1995, come l'ha colto? Come un qualcosa, perché sa che molti l'hanno anche criticato a dire, ma come? Sì, l'Istat è, per carità, un istituto serissimo. Ma c'è davvero da credere che sia così? È un qualcosa tangibile anche nel paese? Guardi, i dati, sa meglio di me da giornalista che volendo si trovano dati per ogni tesi, lo prendo per un dato buono, considerando però che è un dato sugli ultimi anni. A livello mondiale il dato riconosciuto da tutti è un dato della Banca Mondiale, per cui fra il 1980 e il 2008, quindi l'anno di avvio della grande crisi, dell'ultima crisi, il numero di persone che vive con meno di un dollaro al giorno è diminuito da 1,5 miliardi nel 1981 a 805 milioni nel 2008. Poi c'è stata la crisi. Questa crisi sicuramente anche in Italia ha prodotto disoccupazione, ha prodotto difficoltà di arrivare a fine mese, ma noi che cosa abbiamo fatto? Cioè, o meglio, i nostri governi che cosa hanno fatto per affrontare questa difficoltà derivante dalla crisi? Hanno aumentato le tasse. E quindi mi pare abbastanza prevedibile che a una difficoltà economica generalizzata rispondere con un aumento della tassazione, anche per ufficialmente almeno aumentare, diciamo, i sostegni al welfare, non ha portato buoni frutti. E torniamo al discorso di prima. No, anche se c'è poi il professor Gori è stata l'allocazione più che altro di queste tasse. Ma quello ci sarà sempre, è un problema che ci sarà. È un problema sempre di Stato, cioè la sbagliata allocazione delle tasse. Lo si può chiamare sussidio di disoccupazione, lo si può chiamare reddito di inserimento, lo si può chiamare assegno sociale in qualsiasi modo, ci sarà sempre un problema di allocazione poi decisa da chi amministra e di controllo anche, che tra l'altro sono adempimenti che costano, cioè nel costo, diciamo, per combattere la povertà c'è anche il costo dell'amministrazione che controlla che non ci siano i furbi. Allora, comunque lo si voglia chiamare, è un problema che non elimini. Certo. Allora fatemi sentire un ascoltatore, Luciano da Parma, che ci chiama l'800240024. Luciano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, intervengo su questo. Recentemente ho letto un libro di un tedesco di cui mi sfugge il nome, che definisce la tassazione una cleptocrazia di natura tardo-assolutistica. Beh, vabbè, detto così fa un po' ridere, ma da parte dello Stato, immagino, come cleptocrazia. Sì, ovviamente. La parola affermazione era questa, non so se al centro della discussione possa rientrare un argomento che si così fonda su tre numeri. L'Europa ha il 7% della popolazione mondiale che produce il 20% del PIL mondiale e divora il 54% del welfare mondiale. Sì. Noi siamo al cospetto di un stato, di un welfare oramai giunto alla sua insostenibilità. e se non riportiamo al centro di questa vicenda la manifattura, immaginando che il welfare possa, per così dire, aumentare in assenza di un retroterra manifatturiero produttivo, non dico potenza industriale degli anni 60, ma qualcosa di simile, ogni battaglia è persa. Uno che è nato nel 50 ha visto un pezzo di Italia arcaica e la gente aveva paura non delle malattie ma di dover andare all'ospedale perché era pagamento. Quindi noi abbiamo assistito in una generazione, forse due, ad un'implementazione del welfare che è stata rivoluzionaria. Però dice ormai lei sostiene, Luciano, è insostenibile con queste cifre. La ringrazio per il suo intervento. Vorrei chiedere al professor Gori, lei concretamente che cosa prevede, per esempio, per una persona? Io ho fatto l'esempio di una famiglia, due persone che magari si ritrova senza lavoro, prevede per esempio un sussidio di disoccupazione come c'è in alcuni paesi, prevederebbe, oppure per chi lavora, perché sono sempre maggiore anche il numero delle persone che si trovano in quella che si chiama in work poverty, cioè che hanno un lavoro ma non hanno uno stipendio sufficiente per uscire da una soglia di povertà e quindi un salario minimo garantito per tutti. Cosa prevede lei, professore? Io vorrei intanto tornare sull'interessante intervento dell'ascoltatore. Il punto della nostra alleanza contro la povertà è proprio che bisogna separare il discorso generale sul welfare, che è esattamente corretto come è stato fatto, dal discorso sulle politiche contro la povertà. Cioè, tra le difficoltà del nostro welfare c'è il fatto che sono stati sprecati un sacco di soldi e che intanto non è stato costruito un adeguato meccanismo di intervento rivolto alle persone in povertà assoluta. Questo secondo noi è un punto, cioè noi chiediamo che si faccia un dibattito pubblico e delle politiche specifiche sulla povertà assoluta. Questo è il primo punto. Per quanto riguarda le persone, diciamo, che non lavorano, che vogliono rientrare, il punto, diciamo, il meccanismo del reddito di inclusione sociale, cioè questa misura che noi proponiamo, ma che, le ripeto, non stiamo inventando niente, sono cose che ci sono in tutti gli altri paesi, è che se io divento povero, lo Stato mi dà quel tot di risorse che mi permettono di arrivare a delle soglie minime, però poi mi chiede di impegnarmi a cercare lavoro. Cioè il reddito di inclusione sociale cosa sarebbe? A quanto ammonterebbe? Ci faccia capire proprio un esempio pratico. Allora, un esempio pratico, le soglie, come lei ha visto, sono varie, però facciamo riferimento agli esempi che lei ha fatto all'inizio. Queste sono le soglie dell'Istat che vengono ritenute valide per raggiungere un livello minimo di vita decente. L'idea è che si parte da queste soglie, si calcola il mio reddito e lo Stato mi dà la differenza tra il mio reddito e questa soglia. Sì. Okay? Cioè tutti noi, questo è il punto, però... E secondo me è uscito un cioè si stabiliscono dei parametri, se uno guadagna meno lavorando lo Stato compensa con quello che manca per arrivare o non lavorando, quindi in questo caso un sussidio di disoccupazione, diciamo. No, è un sussidio di povertà, perché la disoccupazione è... E però l'altro punto è che questa cosa funziona solo se si sposano i diritti e i doveri. Cioè io in quanto povero ho il diritto di cittadinanza al reddito di inclusione sociale, certo. Però ho il dovere di fare ogni sforzo per uscire dalla povertà. È chiaro, perché altrimenti se no si creano, è lì, e Serena Sileoni messa così è un discorso, lo dico in maniera dura se vuole, utopistico quello di Gori, cioè questa alleanza cittadino-Stato, non ti do il reddito di inclusione sociale ma tu mi rimani lì a non fare nulla perché tanto c'è mamma Stato che mi provvede a fine mese di darmi quei fondi che mi permettono di tirare avanti. È un discorso utopistico quello di creare una nuova alleanza Stato-cittadino oppure no, Sileoni? Sull'alleanza Stato-cittadino sì, credo sia utopistico, ma da che lo Stato fondamentalmente non esiste, quindi è un'alleanza unilaterale volendo. Vero è che una forma di reddito minimo per i poveri, non per i disoccupati, non è un'ipotesi che anche economicamente starebbe in piedi, ma soltanto ad una condizione, che si eliminino tutte le altre forme di sussidio e sostegno, quindi bisogna assolutamente integrarla bene con la parte di mercato del lavoro e anche quindi dal punto di vista del nostro governo con quello che si sta discutendo per la riforma del lavoro, ma soprattutto che si integrino bene, nel senso che l'una esclude l'altra, con il welfare per servizi. Sì. Cioè, o accettiamo un welfare per assegni o accettiamo un welfare per servizi, e non è soltanto una questione di sostenibilità economica, è anche una questione di non mescolare i due tipi di welfare, appunto, perché mescolarli vuol dire fondamentalmente far perdere al cittadino il controllo di quello che versa allo Stato come tasse. Sentiamo Angelo dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Angelo. Buongiorno, io parlo su un'altra cosa, poi le dico queste cose che stanno dicendo per aiutare i poveri, proprio giù da dove c'è stato il terremoto. Io ho 66 anni, ho pagato per quasi 50 anni i miei contributi, sono agente di commercio, pago tuttora, dove venivo a percepire 1.300 euro di una pensione. L'anno scorso ho fatto 65 anni, ne prendevo 1.550 ogni due mesi. A fine dell'anno mi hanno fatto un conguaglio, trattenendomi, dove mi scatta un'aliquota che non so quale aliquota, io ci perdo 6.000 euro all'anno. Vabbè, questo per dire, riguardo alla questione della povertà, Angela, a parte questa è la questione della povertà, personale. Vanno sempre a prendere i soldi da già chi paga. Quelli che percepiscono 6, 5, lì quella gente lì non vengono decurtati mai da niente. Vabbè, insomma, diciamo, Angelo, lei, perché siamo quasi in chiusura, professor Gori, ne fa da una storia personale, insomma, dire sì, è così, professor Gori, che si creano lentamente i nuovi poveri, erodendo sempre più gli stipendi, le entrate. Allora, questo intervento è molto interessante, perché bisogna distinguere tra impoverimento e povertà. Assoluto, esatto. Povertà relativa e assoluta. Ecco, tante persone che magari quest'anno, e non so se è il caso del signore, non possono andare qualche giorno al mare come l'anno scorso, non possono comprare qualcosa che volevano con l'anno scorso, questi si stanno impoverendo. La povertà è un'altra cosa, è il fatto che non si dispone dei beni e servizi essenziali. No, ma questa infatti è la cosa principale e di base, ma magari il tema lo riaffronteremo, cioè la povertà, l'impoverimento, la povertà relativa è quella che al nostro caro Angelo, al quale ovviamente vanno tanti auguri, vede ogni anno le proprie entrate ridursi, magari i prezzi aumentare, quindi abbassare i consumi e cercare di tirare avanti. La povertà assoluta, quella dei 6 milioni citati ieri la lista, sarebbe di quelli che proprio non arrivano, faticano ad arrivare magari proprio alla fine del mese, ma nel senso che non arrivano a mettere il piatto da mangiare se hanno figli, per i propri figli. Comunque vi ringrazio, Cristiano Gori, Serena Sileoni, per essere stati con noi. Con voi concludo la puntata di oggi 24 mattino, con Giorgio De Luca, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia. 24 mattino, questo è l'account Twitter, il mio personale è Alino Milan, e finiamo come abbiamo iniziato, una giornata agghiaggiante. Antonio Conte, a domani 6:30.